ricordo dove andiamo. Natalino. Ciao Giuseppe. Una una gentilezza, buonasera anche a te Massimiliano, scusate l'intrusione, mi puoi dare gentilmente Natalie un controllo? Vedi un pochino Natalie come sto andando, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 9, 20, sì. E radio è buona? Sì. Ciao Massimiliano. Ciao Giuseppe. Com'è lì dalle tue parti? Qui dalle mie parti il segnale sei prima di 9, adesso c'è fatto quel lavoro, sei 9 e 5. E K di positivo, dai, anda bene. Allora, un passaggio, un altro passaggio. Vedi un po' Massimiliano com'è, se ti sto arrivando bene, K. Sei poco più di 9, 9 e 5, sì. K di positivo, grazie Massimiliano. Niente, tutto a posto le stazionali, eh? Ci stiamo lottando, Massimiliano, ci stiamo lottando e stazionali e adesso sono a 1 in 1, però diciamo che sono pilotate. Ah, ok, no. C'è una cosa di mezzo per passarle, così? Sì, Massimiliano, sì. È stato a quello quando ne ha? Un e mezzo. E troppo solo. Non so, domani vediamo un pochino di andare sulla molla, sull'accordatore, dai. Avanti, 10 centimetri. Avanti, Natalie. Luce? Sì. No, aspetta, forse c'è un'altra portante. Avanti, chi è? Mi sembrava un'altra portante. Ascolta me Giuseppe, invece in ricezione hai guadagnato qualcosa? Ricezione io ti sento sempre bene qui a te Massimiliano. Ma il mio segnale com'era lì? Sì, ho guadagnato un qualcosina, perché fai un passaggio un secondo. Guarda a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedi un po'. Qui adesso mi sta arrivando un Santiago di 7, Massimilia. Addirittura così basso. K. E prima invece? Aspetta un attimo. Dai, mi sembra un po' poco 7, comunque va. Massimiliano, 9 più 20, K, ho sbagliato io, sono fuso, non so se sono adesso dal tetto. Cazzo, ma da 7 a 9 e 20 c'è una differenza allucinante. vabbè, là, se siete tutta la sera lì, ti capisco, va. No, Massimiliano, non tutta la sera, grazie a Dio dalle 9 di stamattina. Allora, ma alla fine quanto l'hai sollevato ancora? 3 metri. Ma 3 metri dal punto che era o hai aggiunto ancora altri 3 metri ai 2 metri che c'erano già? No, ho aggiunto altri 3 metri a quello che avevo già. Quindi adesso diciamo che sono intorno di palo, dovrei essere intorno ai 5 metri più la mantova. Quindi gli hanno già un bel pezzo fuori adesso. Cappa. E qua diciamo prima di 9 spaccate, adesso sei 9 e 5, no? A picchi positivi, quindi qualcosa sicuramente hai guadagnato in ricezione e anche in trasmissione. Anda bene mia, dai, adesso vado su che devo chiudere un paio di bottole, Massimiliano. Ci sentiamo a più dopo. Ciao Massimiliano, ciao Natalie, buon proseguo. Ciao, ciao Giuseppe, guarda. Ciao, ciao. Ciao, gaba. Ti vedi tu, Natalie, nuda? Sì, sono qua al computer, so. Sentiamo, ciao. non ho sentito. Io non so, Antonio. A parte qualche giorno, non ho sentito un altro. No, non ti stavo facendo la ritosi. Ah, tu vedi, no, non voglio andare a basso. detto io. Di come stavate parlando? Adesso lo sai, non ho i punti, dopo la partita, adesso mi... Ma tu dici che proviamo a entrare, mi sono spaventato già. Non ci sono posti, nei parcheggi hanno bevuto tutta la gente, ha detto andate, via non c'è posto. Ecco, per non entrare ti dici Cilapa mi ha fatto uscire dalla strada di Gosu. Guarda, una cosa mai vista, sembra cosa di Mussolini, quando aveva aperto la città mercato la prima volta. Lo so, c'era una sala bloccata, sono stato dentro il primo giorno, infatti ci ho rinunciato, anche se le ferie, ci ho rinunciato a entrare perché era un casino. Sono andato il giorno dopo di mattina, ma a Tarino c'era un bel gente, ma si poteva parcheggiare, c'era qualche parcheggio, Come deve andare, come hai detto io, alle 7:30 del mattino, l'apertura, mi sta fatto alle 7:30, già. Va. Camera da letto nuova, pittura la camera da letto, passatempo c'è. casa mia a pitturare, mi dice, tanto anch'io devo dare una rinfrescata, se si senta fare niente, dai. Bellissima giornata, proprio si stava bene già. Sì, stamattina stavo aiutando da Giuseppe per fare quel lavoro dell'antenna. Ci sono, cosa state facendo? Sollevandola? Abbiamo cambiato tutto il palo, l'abbiamo messa di quello rosso e l'abbiamo sollevata. E sa, vuoi rivedere il segnale? È migliorato, ma niente, vabbè, voi siete vicini, per voi è sempre fuori. No, ancora non ho guardato il segnale perché non sono stato regolato le stazionali. Mi ha fatto una sorpresa l'antenna. Mi ha dato le quattro stazionali e qui dobbiamo risalire domani mattina. Cosa toccate? La bobina? Sì, immagino una cosa facile, basta allargare e stringere e non c'è problema. Eia, il cavo cosa c'ha? Cavo sottile lui? E io dico, se lo stai facendo, farlo direttamente definitivo col capo grosso, se c'è la possibilità. Ma vabbè, ognuno può vedere cosa fare, non è che io l'ho messo allo stesso fine, a casa di mamma ce l'avevo 15 anni, con lo fine non mi ha mai dato problemi. L'ho portato io quell'antenna perché disturbavo e mi sono incazzato e l'ho ritrovato tutto, ma il filo varia tutta. A parte che io so fare un altro filo che è migliore. Di quello fino si chiama 3104 ed è migliore di quell'altro che c'era. Sì, sì, quello con l'isolamento esterno, il coso, il rivestimento un po' più grosso, più resistente. Però il problema è che si secca lo stesso col sole, è troppo sottile, si secca lo stesso col tempo. Tu mi dirai, non me ne ha fatti nulla, se dura 7-8 anni va bene lo stesso. Tutti si seccano, tutti. Sì, chi più e chi meno, ma quando c'è un isolamento molto grosso la dispersione è molto inferiore. Se ti guardi la pelle, tu mi dirai se avrai 20 metri di cavo, non te ne ho fatto nulla, ma uno che ne ha 40 metri come ne ho io, un po' di attenuazione ce l'hai se usi il cavo sottile. Infatti, vabbè, uno che ha una dispersione, sì, ma se no quel cavo lì a me ne ha tanto essere su altri due, non posso dire il contrario. Direttamente e via. Avete fatto da duro soprattutto, non ho capito una parola, solo l'ultima di giorni ho capito. Ha detto che non ce n'è bisogno per qua. Quel capo grosso è solo per le bande alte, voi cambiate ogni 5 anni, perché ogni 5 anni c'è la migrazione del rame. Ecco cos'è il discorso. E basta guardarti l'attenuazione tu e poi mi dici se c'ho ragione. Guardati l'attenuazione tu di un cavo da 100 metri di cavo, un RG50 e poi lo confronti con un RG213 o un RG8 e vedi cosa c'è l'attenuazione. Roba di 10 decibel di differenza. Ho già preso 10 dB. Ma qua non te ne accorgi neanche a 27. Vabbè, non te ne accorgi, secondo te, io già me ne sono accorto quando ho cambiato il cavo, è nata lì, meno QRM, meno disturbi e meno niente. Quando passa la moto vicino, mi intendi tutto quanto. Se mi dici quello, sì, però l'RG58 va bene per qua, non c'è problema. Dopo dipende da che RG58 metti. L'RG213, io ho quello... la cacetta, cioè. Ma è per le bande alte, lo spreco per qua. No, naturalmente va bene il 50, non lo sto dicendo a quello, già è nata lì. Ma io dico uno che sta mettendo un'antenna nuova, sta facendo tutto nuovo. Io guardo anche i particolari, io mi ho messo i connettori Amphenol proprio per evitare problemi, quelli in bacchilite, proprio tutto quanto la regola date. Il cavo grosso con la norma militare, 213.000, proprio, ho detto lo faccio una volta per tutto, mi costa un po' di più, però è definitivo il lavoro, no? Non è pari per me a 30 euro di cavo, no? Lo so. Ma bisogna vedere se uno al buco grosso può fare e interessante da dire è quello che uno poi ha problemi di calata eccetera eccetera. Vabbè, io sto parlando di me, poi ognuno vede le cose sue e i conti in tasca la sua si fa. Infatti, è quello il problema. Poi io che uso 3 kW devo per forza mettere il cavo grosso, ok? Infatti. Tu quanto ci arrivi a 1500, va bene anche le 58 per 1500 watt. Sì, c'è con l'antenna a coso, a vaginare. No, mi ho capito, scusa. C'è sta con 1500 watt, con le 58 mi si chiudi l'apparecchio a faccia. E c'è pure l'antenna a vaginare. Non lo so, quanti watt potrei reggere le 58? 500 watt di legge. Sì, ma massimo, beh, ti sono di che già tutto. Infatti da pazzo uno che ci mette qualcuno, qualcuno l'ha fatto sicuramente, ci sarà qualcuno. Ehi, ma ti siamo di che se le 58 rimane su cosa trovate, lo vuoi vedere se va in gomma. E io vabbè, poi più potenza di dai con quel cavo lì, più scalda e più attenuazione c'ha, magari se gli dai potenza fino a 100 watt non succede niente, più ne stai andando, per dire, da 100 lo porti a 300, c'è un'attenuazione ancora più pronunciata. Vediamo Gianni se c'è il copia ancora, avanti Gianni. Non c'è nessuno, facciamo una chiamata generale di nuovo sul 21, se c'è qualcuno in ascolto e che vuole entrare con la buona sera avanti. Siete dimenticati di me. Come di me? Tu lo stavi chiudendo, non è detto così? Magari, dai. Io? Io stavo chiudendo. Antonio, non è detto così? Io stavo ma stavo chiudendo Antonio, ma non io. Ma tu lo sono fare Antonio, anche. No, Antonio fa conto giù, io lo gioco per conto mio. Non siete in macchina insieme? No, no, Antonio è in macchina da solo, io sono in macchina mia. Ah, così, bubu. Va bene, dai, riprendi per farla. Più rapidità e più ne mandano. Capito? Da partire ritorno, ha detto, ma mai da un po', fa altre cosa li facevi tu di modifica per renderlo un po' più squillante? Si può cambiare la capsula. Quello che c'ho di Luca, ci ha messo la capsula del telefono, sulla 48 mi ha detto che funziona bene. Mentre quell'altro del Mobicom è originale, infatti voglio provare a mettere la capsula del telefono pure di lì se migliora, perché dice un po' cupa come radio, come avete detto. In effetti sì. Adesso vediamo, ne propongo, io c'ho un paio di telefoni vecchi, se funziona, vediamo un po', e poi mi dite. Che ragazza. Perché me lo voglio portare al mare quel baracchino, perché non è tanto grande, non è aperto le base, ma è piccolino. E non ho bisogno dell'alimentatore né nulla. Così andava. Vabbè, vediamo un pochettino se c'è qualcuno nel frattempo. Attenzione, canale 21 che vuole entrare, avanti. Vabbè. Mira Marius. Chi è Mario? Ah, Luca, tu sei. Avanti, tieni il Mario. No, perché ho visto il segnale, ho sentito un attimo. Mi sembrava il segnale di Mario Masso, senza. Ciao Luca, hai sentito? Così basta arrivo. Così basta, che altro così basta? Chi Mario Masso non arriva a Masso? Mario arriva a oltre 9:30. E Mario è forte, siamo in pochi che lo battono a Mario, pochi, pochi, pochi. Sì, l'ho detto, io l'ho sempre detto, stranamente lui, per essere alla veloce si crepa un po' di gente che è più in alto di lui. Io. Ah, vabbè, faccio qualche greca al 30, ci sentiamo dopo, vai. Sulla tassa sono là, e devo fare dei piccoli controllini. Va bene, dai, ma ci sentiamo dopo. Ok, ciao Falchetto, avanti Natalino prima. Oh, calma, oh, yeah. Va bene, veda. E allora perché? Allora, Natalino. Lui Sanca, non posso camminare, manco questi stampelle. Beh, non credo bene già, con questo tempo mi torno a mettere il pisciolato addosso. Uiuia, bevuto, c'è sempre di bevuta. Dai che era buono oggi, non ci possiamo lamentare. Natali, con cosa stai uscendo? Con Galaxy. Già, con cos'è il micro, con lo Shure, quello che c'è di nuovo. Ehi, con lo Shure, so. Ormai questo l'ho attaccato lì. Sì, va bene. Uiuiaia, uiuiui. E se c'è stata un po' di propagazione, voi avrei fatto qualche di ex. L'altro giorno c'era, vabbè, la settimana scorsa, mi pare di domenica, c'è un attimino, c'è sentito gente da lontano, ma segnaloni furti mi dal Portogallo, credo, fortissime. Sabato ho collegato Buenos Aires. Io ho collegato San Paolo del Brasile qualche mese fa, sono rimasto a bocca aperta, lui mi ha detto che c'era una direttiva puntata verso l'Europa. E direi da piena estate mi ha detto c'erano 34 gradi un paio di mesi fa, mi pare dicembre più o meno, chi vive Luca è fidiato, Luca andava via, ma siamo stati, non dico un'oretta, ma tre quarti d'ora parlando con questo tipo. Ah sì, una bella direttiva la voglio avere la 327 per farmi di ex con motore tutto. Già si può fare, non è neanche molto costoso, mi dà lì. Ok, ieri stavo facendo, eravamo su un attimino, mi sono spostato, c'era Claudio e coso, aspetta chi mi pare Luca, lui stavamo ascoltando negli 80 metri, lui con l'antenna dedicata, il segnale suo era 9 più 10, a me quasi 9 più 10, poi quello che da lui era 9 pieno, a me era quasi 9, io con la manta ovviamente, tieni presente Natalia. Io lo so, qua arrivano con in 80 metri, questa antenna è una bella, arrivano con segnaloni allucinanti, non ho tanto detto, diceva che è una cosa spaventosa. Infatti sono rimasto a bocca aperta pure io, infatti per avere ragione il Salvatore, l'amico nostro, il radioamatore ha detto tu c'era una posizione allucinante, appena stavo un giorno è venuto qua, stava girando un po' degli 80, 160, ha fatto dedicata ai lupi, si batta qui ho fatto un anno, dice, la prossima volta ha detto ci organizziamo, rimasto, ma non pensavo che la massa ci avesse quei segnaloni confrontati con un'antenna dedicata. Ehi, già lo so, io non la uso la manto qua per ascoltare lì, però anche la manto qua si difende. E con le filari, non c'è niente di filari tu? Ehi, c'è la multibanda. L'ha autocostruita o comprata? Ah, io l'ho costruita, ma l'avevo fatta anche a San casa, io c'ho anche quelli, c'ho tutto, in quella che ho fatto io, perché la mia è la versione quella più grande. Cos'è, un quarto d'ora, quanti metri? La D5DV, guarda su internet, la vedi, quella scaletta è. No, ho capito, sì, sì. E la fattatura, costruita tu? E allora, gli ho fatto in mano, perché l'attacchi sotto il cavo, dove scende la scaletta, non si attacca sopra, si attacca sotto, ed è una belva, guarda per le parti, anche il 27, nei 6 metri va, e più fa tenere a caere. Ma lui me l'ha calcolato, c'aveva un progetto tu? Cosa? C'aveva un progetto per calcolare il valume e le dimensioni dell'antenna. E mi ha detto Antonio come farlo, Antonio Monteoro. E infatti non li ho fatti con quello, con quell'antenna lì, quindi come essere più PVL. E il valume è molto complicato, è stato costruirlo. Ah, DRG58 è fatto. Già è una cosa accessibile. Oh, mi sa che sono arrivate le tizze, vi devo salutare, semmai ci sentiamo dopo. Ciao Natalino, c'è il Falchetto ed eventuali ascoltoni. Ciao ciao a tutti. Ciao Robè. Ciao Robè, buona pizza, buon tutto, le prossime. Quanti Falchetto, caro. Ehi, mi pare che la profitta di tu a fare un po' di chiare, così ne ascoltiamo più dopo, se coincide. Non ti ho sentito, guarda che stai uscendo basso del radio. Ma il microfono cosa hai fatto? Guarda, direi. Voglio mettere un po' a vedere, oi, dalla parte che si attaccava, oi, cazzo, arrivo il capo, ci dà la sua parte, al microfono. Sì, quindi si dice, ma quanti mai sei venuto in basso, Antonio, giudizio, tra me e me? Anche poi con il microfono girato, penso che ho pensato avanti. Mella gocca, mi, bobo! Ehi, ehi. Ah, io stavo per proteggere il culo, fa un pochettino di carica e riprendo fra tu, fra P, fra P, fra P. Ehi, fai così, tira io la mena di buio a mangiare, da dove, casomai se coincide già siamo qua, già non scappiamo, Va bene, buona carica, Natale, buon tutto, io vado a caricare, se no, no, che mi trovo in due. Andà bene, mela, miau. Buona carica. Ci siamo presi due cose. aspetto, cosa facciamo? Ci andiamo a farci girare il pallotto? Cioè, mi ha detto sì, io siamo andati. Poi la promotore ha detto io che ci fermiamo, tu devi vedere che servizio con la pizzeria, altro che ciocca, non ti lasciano il tempo di riempire il piatto, te lo cambiano, qua è una cosa tutto particolare. Io lo so, non è la prima volta che ci vado lì. Vabbè, ma ieri era particolarmente servizievole il personale. Sì, ovvero la strumenta non potete dire da qua, anche io che vedo qui, la vado a dire. E quindi si stava lavando a fare, lavava le tradito. C'era poca gente ieri, non c'era il sovraffollamento che c'è sempre. Pochissima gente, eravamo noi e un altro signore. E a me il paese che aveva in presa. Allora. C'è un po' di fame, c'è un po' di fame, quindi i clienti si tengono cari. Mi ha toccato la mano quando me ne sono andato, perché c'era stato di mio gradimento, eccetera, eccetera. Ehi, qua, mamma, anche la mia ex se l'ho portato lì, se l'ha messo qualcosa lui di candela, abbiamo mangiato, cavolo. Appaga, appaga. Vabbè. Comunque già siamo stati bene, poi siamo andati a farci un giretto, ce ne siamo risaliti al quadrato, siamo andati a berci una cosa a quel bandiere di nuovo e poi ce ne siamo andati. Io ho detto, quello è preso tutto da quella lì, adesso non fa, tanto mi ha detto che non veniva. Che preso, capito, le donne lasciano il tempo che trovo. Ma caccia a passi e fasi. No, doveva entrare su Messenger, già ci siamo sentiti e tutto. Ah, vabbè, allora. Se ne valsa la pena richiederti in casa, va anche bene. No, ma io non sapevo che voi dovevate andare in giro, io credevo, capito? Se io sapevo che dovevate andare là, venivo pure io, non c'era problema, capito? Non era calcolato, siamo andati a farci un giro, siamo scesi a Plattavola, poi siamo andati a Forlottore, stavo ascoltando un CD che non è bello, e siamo andati a Porto Torres, e poi una volta che eravamo a Prodo, ci ho detto, siamo andati a mangiarci una pizza, io, è capitato così, non è che era nulla di previsto. Ehi, lo so, lo so. Io poi non lo sapevo che voi andavate in giro, che ci sono andato a accompagnare quel signore là. Per esempio oggi non sono uscito per nulla io stasera. Se poi vuoi venire noi siamo sul quadrato. E ci troviamo lì. E mi ha toccato di prepararmi, mamma mia, fini venire. Se no gli ero io un tre che non l'ha giocata. Di cosa ti lamenti allora Natale? Se ti lo dici che non mi viene, se... io non so cosa ti devo fare. Se ti dico di venire non ci vuoi venire, se non te lo dico ti lamenti perché non te l'abbiamo detto, decidi dimmi cosa vuoi. E per ieri sì, cosa c'è? Oggi non ne ho voglia di uscire, sono con un disabili, mi tocca tutto, devo andare ancora a farmi la doccia. Cosa avevo? Tanto se mi scendi avanti. Ce ne stiamo lì, non è che stiamo andando in locale o cosa, siamo lì, siamo in chimica, lo sai, fammi tempo, ti muoviamo una sigaretta, cosa noi che facciamo niente di che. Sì, già lo so, ma se da voi va di vento, che stai in chimica, lo prego, non è che mi piace assai così. E vabbè, scusa un attimino, vediamo se stai facendo cosa. Dani! Prova a parlare che è attenuato, ma vedere se ti sento. Ehi, se non mi intendi, che hai pittina, boh. Io ti intendo. A parte non intendo più, non devi intendere. Ehi, infatti. Cappa, cappa, cappa. Aspetta, sta lì, sta colato. Ehi, attento la tale. Ora, ora. Ah, attenzione, Natalino, Natalone. Che cazzo di noghe, che cazzo di noghe, gaffa. Come mi senti con questo qua? Uno, due, tre, prova. Ola, ola. Ola. Bene, bene. Guarda, guarda, questo qui già non mi fa sentire a nessuno, va. Hanno voluto loro, adesso mi attacco questo e buonanotte. Se no, cominciate in displattere, ho detto andare con l'asso. Attenzione Gianni sul 21K. Avanti Giuseppe. Buonasera Gianni, buonasera a tutti e buonasera a Natalino K. Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito, ben entrato. Grazie Natalì, cordialità anche a te e altrettanto si dica a Gianni, dai. E avanti doppio room. E a Giuseppe, quanto c'hai adesso? Beh, adesso con l'accordatore sono quasi a zero, però dobbiamo vedere domani già che cosa riusciamo a fare, perché oggi è stato praticamente un incubo. Kappa kappa. Oggi dovrò andare male dall'inizio e via. Kappa. Non so che cosa sia successo, se devo essere sincero, perché la molla non è stata toccata per niente. Questo un e mezzo di stazionarie, non so da dove siano venute fuori, e poi di colpo sono andati a due. Potrebbe essere anche uno stacco che ci sia lì, e tu alzandola magari l'hai preso. Adesso una volta che regoli tutto quanto dovrebbe ritornare alla normalità. Ma che vuoi fare? Oh già, dalle 9 di stamattina ne siamo scesi poco fa. E guarda, io ho pranzato un'oretta fa, dai. Capo, chi mi chiama? Avanti. Avanti che mi chiama. Vabbè. Ah, ci ho capito. Giuseppe. A me la verità, quando io l'ho piazzata, diciamo che l'abbiamo toccata appena appena e l'ho messa a posto subito, io c'ho 1-1 su tutti i canali, nemmeno 1-1. Ola. Attenzione, che poco. Come sta andando questa radio, Giuseppe? Ola. Stai pompando alla grande, stai andando veramente forte. La regolazione l'ho fatta bene all'inizio, non mi fischia, grazie a Dio non mi fischia. C'ho la regolazione di lusso, dai, c'ho anche il top gun. Kappa. No, io sto scendo senza, adesso provo a mandarlo e vediamo un pochino come con questo piccolo accorgimento. Kappa. E cambia la modulazione, molto più compressa. Ma è comprensibile? Sì, è chiara. È chiara ma più forte. Come già? È chiara ma forte. Kappa, vediamo, perché adesso diciamo con la modifica che ho fatto devo vedere un pochino anche, cioè capire se ci sono state delle diciamo dei miglioramenti oppure dei peggioramenti. Kappa, no, va bene, però non va bene che tu esca con l'accordatore, perché le stazionali con l'antenna nuova devono essere regolate, se c'è cosa l'accordatore si può usare con l'antenna già 30 anni, roba così, allora sì che ci vuole l'accordatore, perché magari le stazionali, essendo arrugginite o cose ossidate, allora va bene, ma solitamente quando è nuova l'accordatore, proprio io ce l'ho l'accordatore, non lo uso nemmeno. Kappa di positivo già, però in questo momento mi occorre perché poi domani si faranno le ultime regolazioni. Anche per Paolo credo. Kappa, quindi abbiamo la famiglia completa riunita, non so se sia già in modulazione, mannaggia. Mi aveva detto Antonio che entravano. Quindi allora di preparare un buon pranzo per domani. E domani un aglio e olio mi proprio per tenerci in forma già. Appagato. C'è qualcuno che vuole entrare? Aspetta, avanti. Avanti chi vuole entrare? Allora mi ha fatto di proposito a mettere la portante. Capagliare. Sto scherzando, ci sei naturalmente. Sto abbuffonando. Giuseppe, Giuseppe, scomparso. Avanti. Vedi, esatto. Papalino è presente, K e ricappa. E dimmi Gianni. No, non mi rispondevi, speravo se stessi uscendo o che ti era successo qualcosa. Aspetta. No, stavo scherzando, ti ho detto, non lo so davvero. Su cosa Gianni? Sul pranzo. Ah, ma non c'è problema, non c'è problema. Dove mangiano in due e qui mangiano in tre, non ci sta mai problema. Scherzando. Ti pare che mi occhi di vita, non sono nemmeno il tipo. Cara. No, vabbè, dai, vediamo domani mattina, che ora ci avete la puntata? Ma a dirti la verità non lo so, l'orario non ce lo siamo dati già, anche perché come ho detto poco fa ci dovevamo, cioè ci dobbiamo sentire anche in frequenza e a dirti la verità guarda, io mi auguro che per le 11 e mezzo massimo io abbia terminato tutto. Vabbè, comunque la posizione dell'antenna è buona. Avanti Pierino, sei tu che stai cercando di entrare? Sei positivo e capo a Rogera, eccolo bene, cambio. Ciao Pierpaolo, buonasera. Come sta buono? Sono tre bie. Ascolta, a mangiare dobbiamo. Ciao, buonasera. ben sentito e ben trovato qui sul 21 K. Alberto, cos'è che ha detto? Ben sentito e ben trovato sul 21 K. Ecco, allora, non ho capito quello scusolato. Ciao Mazzia, ben scusolato, Mi vuol bastardo, Buonasera, scusando la frase. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, dai, da parte mia, Liputi, direzione, Tata di Mando, K. E K di positivo, Tata riesce Mando, Mando e Mando, K. C'è un po' di battimenti qua, capito? Ci sono i radioamatori nel 30, un casino. K, mi sono accorto poco a poco. Avanti la vela. K, fa poco la faccia di sorellare, di copiare c'è con la faccia. Allucinante. Vedete, se con 100 metri non dà l'acqua, il gas è proprio 100 watt. Ma io ho preso questo perché era il migliore, e proprio ho consigliato l'RG58, mannaggia. No, ma RG58 ha quello con il filo esterno, è morbido, no, quello lì, la coglia non mi può usare anche per la videosorveglianza, uso anche audio-videosorveglianza quei carri lì, no, non l'ho mai visto usare per questa cosa qua, e poi io lo odio. Io dico la verità, io ce l'ho RG58, però è di quello morbido, mi hai capito? Tutti consigliano il 213 perché giustamente a doppia casa, più tenuta per il sole, capito? Ma se non devi usare grosse potenze va benissimo, lo dici 48 quello morbido, venne a fare i buchi. Ah, infatti secondo me ti conviene, come dice Pierpaolo, lunedì vai, te ne prendi 20 metri, quelli che ti servono metti nuovo e via. Arrivati a un certo punto e mi vedo anche costretto, perché se no quando io non ne vedo la fine, cioè non si può rimanere tutto questo, cioè buttare via una giornata per tirare su un'antenna di 3 metri. Ma che bello, lo sai cosa è Giuseppe? Cioè finché la tiri su risolvi i problemi, nel senso che hai più ricezione, più trasmissione. Tanto di cappello perché le sollevate via, però sollevando così di 3 metri è visto che il guadagno più o meno è lo stesso, e la ricezione, cioè la ricezione è lo stesso, la trasmissione che gli altri ti ascoltano più o meno lo stesso segnale, alla fine girati come arriva la storia del mondo com'era. Lo so. Anch'io stamattina prima di pestarmi il dito, mannaggia, se avessi saputo che il martello, quel colpo di martello mi andava a finire sulla mano, l'avrei lasciato per terra il martello, Massimiliano. Lo so, vabbè, là, quindi ci arriva a sporchi un dito. Vabbè, dice, sono cose che succedono quello. Comunque là, da parte mia ho guadagnato qualcosina, poi da parte degli altri non so i segnali e cosa ti hanno dato, però da parte mia prima di 9 si è passato a 9,5 a picchi positivi. Cappa, vedo di fare un giro d'orizzonte poi per vedere, diciamo, e Sassa riuscivo bene comunque, dai, nonostante tutto, e vedere un pochino anche fuori, e sentire anche il buon Capri 2, se riesco a tirarlo fuori meglio, se mi sente meglio con questi 3 metri, ma chi lo può dire? Radio 2. Un attimo che riprendo, io mi strutto, dai, per il momento. Per pace, stiamo dopo, dai. Ciao Mario, ciao Natalito, tutta la ruota, Giuseppe a tutti, dai. Io mi parcheggio e passo in quel ritmo. Ciao Pasquale, ciao, ciao, se ne ascoltiamo dopo, dai. Ciao Massimiliano, e buon quel ritmo, dai, ce la risentiamo dopo se coincide. Ciao, ciao, avanti Mario. Ciao Massimiliano, tutte alle prossime, buon quel ritmo, buon tutto. Ciao Massimiliano, alle prossime, bene scusurato, ciao Mario, ne approfitto per salutarvi che anche io faccio un po' di tira. Alle prossime, ciao a tutti. Ciao Natali, ciao a te, alle prossime, buon cuore a te, buon tutto. Cappa. Ciao Natali, ciao, buon cuore a te. Ciao Natali, ci sentiamo presto, dai, buon cuore a te. E niente, dai, ci risentiamo. E avanti Vela. Giuseppe. Sì, avanti. 9.40, sì, qua. Sì, 9.30, picchi di 40. K, extra K di positivo. E prima come ti arrivavo? Sempre lo stesso. E quindi non abbiamo fatto un bischeretto. Sicuramente, magari la nuova zona non aveva cambiato niente. Magari verso fuori, non so. Era più forte Mario, in confronto di tutti qua in zona, ma era più forte Mario. Mario è 9.40 a pieno, tu sei 9.30 più di 9.40. Sarà mai così? No, sicuramente così, perché se il segnale è quello e non ci piove lui, tale, ci mancherebbe altro. Però no, fischia un attimo, vai. Ma io? Fischia. andrà bene meno, dai, non c'è sta problema. Qui su Sassari, ripeto, per il segnale che ho io, basta e avanza, caspita. Non so più, ricezione, non so, non meglio, ricevi meglio, boh, non so, ma sono andato all'antenna di 2 metri, 4 metri, così è. Grosso modo 3 metri, dai, non niente d'eccezionale. Era giusto per scavalcare due antenne di televisione che mi stavano disturbando. Ecco, vabbè, certo. Ascolta, io sto dando 70 watt circa, 50 70 watt. Quanto mi dai di segnale, vai? 9.30 e qua, dai, pieno. Ma quanto arriva lo Smith? 9.50? Cappa. Cappa, vedi? Ma ti vado, stai usando tu? Non pronto, tu sei più alto, vedi? No, io sto usando sempre 4 watt, non ho niente qua, Appunto, io sto usando 50. Abbondanti mi dai 9,20, 9,30. Tu che stai usando 4 watt, stai usando quasi 9,40. Cioè 9,30 più che 9,40. Sì, ma che tu, secondo com'è la tua modulazione e la lancetta dello Smith. Qua io bevo, non ne bevo vino. Viva con la salsiccia, un bicchierino. Viva Falchetto, qualche un bicchierino con la salsiccia già ti sta bene, vero? Più col formaggio. Col formaggio piccante, sì. Ecco. Ora io adesso ti devo portare. Registrate, già. Nella pulizia e poi li prenderò. Cappa, avanti, non senti a capire. Positivo, sì. Santiago 9, Radio 3, Gianni, tu mi senti? Dove ti trovi, Giuseppe? A dove ti stai io in questo momento, già. Allora, Santiago 9 più 20 e Radio 3. Ok, ma a me mi sembra che è troppo un segnale. Se piani mi arrivo meno. E cosa vuol dire? Magari lui è la zona migliore. A me mi arriva il sì. Ok. Dille Giuseppe l'apertura di stasera, Gianni, con la cena pintando. Gliel'ho accennato io. No, gliel'hai raccontato. Ehi, guarda, è stato bello. Ci sarebbe voluto la candy camera.